finito da loro, destino di morte sempre più vicino. Gente che soffre, gente che muore, vittime di un potere che tu stessa hai creato.